fattore. Cosa gli fa? E poi diciamo, credo che a me, grazie a Dio, non mi ha dato problemi, ma perché ho cercato di mettere tutte le masse a posto e poi ho rinforzato. Se tu guardi dietro, forse non nel video, forse non si vede, che ti ho mandato lì dietro, c'è tutta una serie di masse che ho rinforzato. Praticamente ci sono i fibri dei fili, che sono dei fili, praticamente ho delle calze, ho passato le masse, ho rinforzato tutte le masse praticamente, e quello è importante. Quindi magari eviti ritorni di RF, di casini, di fischi, di roba. Grazie a Dio alla prima è andata bene, però se iniziate quei problemi esci di testa sicuro, ma provate chi le fa, per non sbagliare dall'inizio ho fatto quello che ho fatto io, gli ripassa le masse, gli rinforza tutte le masse, probabilmente di quei problemi non ne hai, senza avere il lupo di massa, qualcosa del genere sicuramente. Riprendi Roberto. Sì, a un secondo poi faccio riprendere a Claudio. E la scheda FM l'ha eliminata, quindi in FM non va più con la radio. No, l'ho eliminata, si elimina. La scheda FM si elimina, non tanto in questi video non te ne fai proprio niente, non viene utilizzata. E l'interruttorino cosa l'ha utilizzato? Cosa ti commuta? L'eco o che cosa ho il bip? No, il ho eliminato quello lì, ho messo un parlascolto, non un parlascolto, ho messo un interruttore tre vie e ho fatto lo squelch automatico, quindi c'ha due posizioni lo squelch e una ho notato che è un po' troppo alto, bisognerebbe, come mi capita che gli rimetto mano, lo tiro giù e gliela abbasso, farlo qui in alto sta chiudendo lo squelch. Con l'analizzato col generatore mi ha dato un po', però poi alla fine mi deve abbassare tantissimo quella resistenza e comunque se ti guardi il video vedi, il primo fa lo squelch automatico, il secondo interruttorino fa Roger Beep, posso eliminarlo, mentre il terzo fa i canali e il quarto interruttorino fa il parlascolto. Ok, vai Claudio. Sì, qui a Shell, devi guardare il video, Robert, vedi tutto il lavoro che ha fatto, com'è esteticamente, gli interruttorini, vedi il frontalino, vedi il funzionamento, vedi tutto, è molto molto bella, molto molto bella. Domanda Fabri, ma quella batteria la vendono con quelle due alette? È possibile trovarla già con quelle due alette? Perché non avendo quelle due alette è un problema piazzarla. Sì, è un macello, senza due alette devi saldarcele sopra, ma rischi di bruciarla la batteria, capito? Quindi niente, quindi rischi di bruciarla. Cosa ti posso dire? Io ho guardato, ce l'ho da qualche parte, perché era sempre qua in mezzo alle scatole, che l'ho smontata da una scheda ed era 3 volt, quindi era ottima ancora. Sto guardando ma non me la ritrovo quella batteria, però dovrei guardare, magari c'è il portabatterie, se non trovi quella o ti do il portabatterie, adesso lo cerco, guarda, rimango in quel Rix e cerco se c'è un portabatterie e così ci metti direttamente quello. E i fili, cioè nelle due posizioni, vabbè, quelle due alette, cioè il portabatterie c'ha direttamente le due posizioni per poter saldare i fili, quindi senza toccare la batteria. Sì, al posto della batteria ci mette quello e poi metti la batteria dentro il portabatterie e la cambi quando la devi cambiare. Una cosa del genere, ne avevo preso un po', ne dovrei avere qualche un altro. Adesso fammi dare un'occhiata, che tanto io dovrei averli, quelli li trovo sicuramente, così mi sembra. Lasciami 5 minuti di tempo. Perché sennò diversamente non è una cosa che posso fare io, sono riuscito a smontarla senza molta fatica, però a ripiazzarla senza quelle due alettine che vanno incassate nel circuito stampato, ma non ci penso neanche minimamente. Ok, no, ho riscontrato Giulio la batteria tampone nella radio che era sempre ferma, come al solito, una delle due, questa è la 430, l'altra, non mi teneva più le memorie e quindi consultando Fabrizio mi ha detto che era la batteria tampone, mi ha fatto vedere dov'era, l'ho tolta, però la devo trovare uguale per avere praticamente la stessa facilità per montarla. Se invece non ha queste due alettine per saldare, io rischio, non ho saldatori, rischio di fare danno, quindi mi dovrò fare aiutare sicuramente. Adesso vediamo se Fabrizio mi trova un portabatterie, perché quella rotonda è da tre volte tipo orologio, ho capito, un po' più grande, così gliela ripiazzo e la radio va bene. Avanti Francesco, per te il cambio, io faccio un altro passaggio e vabbè, sono qua comunque in attesa che Fabrizio mi dia risposta. Avanti Francesco. Ok, va bene, io comunque chiudo e vi saluto tutti, buon proseguimento e ci sentiamo alle prossime, dai. Saluto Giulio, ciao Roberto, ciao Cate Claudio, e quando rientra Fabrizio salutatelo, ok, per me è QRT, saluto a tutti ancora, buonasera, buon proseguimento di serata e buona cena quando la fate. Per me è QRT, riprendi Giulio. Ok Francesco, ciao Francesco, allora salutoni, grazie per la chiacchieratina, intanto Roberto vi comunico che il Napoli ha segnato, però forse c'è il VAR da vedere, era fuori gioco, probabilmente era fuori, sì, credo che era fuori gioco, per cui non è valido il gol che ha fatto il Napoli. Roberto, riprendi. Era guarda in diretta, sì, era, ma vabbè, ci aveva anche auto che era fuori gioco, ma volevo dire una cosa a Fabrizio riguardo di quel tipo di batterie. Fabri, non vorrei dire una fesseria, ma quelle con le lamelle sono degli accumulatori, non sono delle pile normali, per cui bisogna stare un po' attenti, soprattutto soldandole, non so quanto sia conveniente, perché questo discorso l'avevo fatto per un ricevitore che avevo io, e la stessa cosa, questa modifica che la cambi quando si scarica, però quelle con le lamelle sono degli accumulatori, confermi Fabri? Sì, quelle lì, no, quelle le batterie sono le ci vogliono quelle con le lamelle, è una batteria, anche quella sua, è una batteria da 3 volt, solo che sono senza lamelle, io ce li ho questi, però non so se lui riesce a saldarlo. Perché saldare quella roba non è uno scherzo, mi conviene mettere il contenitore. Il contenitore io ce l'ho, li ho trovati qua, ce ne ho, aspetta che guardo, io dovrei avere anche una di quelle batterie, lasciamela accertare 5 minuti, perché io ce l'avevo sempre qua buttata in stazione, chissà dove l'ho messa, aspetta. Fai Fabrizio, qua ti ripeto, se è una cosa fattibile va bene, se no l'hai ripiato quella rimane senza memoria, non me ne ha fatti nulla. È che non vorrei che ogni volta l'accendo la radio si resetta, resettandosi ogni volta che l'accendo magari può fare danno da qualche altra parte, capito? Avanti Giulio, riprendi. Ok qua, certo che sì, dunque non avendo le memorie praticamente, però ti puoi sintonizzare sempre col WFO senza nessun problema. Oh Claudio, confermi che è così, ho capito bene? Sì, no, è perfettamente funzionante, la sto usando, non è che ho tolto la batteria tampone, l'ho messo il tappo, la sto usando, non è un problema. Chiaramente vai ad agire sulle memorizzi i canali e fa tutto bene, prende tutte le memorie e quando poi la spegni, l'indomani la riaccendi, le memorie non ci sono più, capito? Perché la batteria tampone non tiene completamente a zero, l'ho misurata col tester, c'ha neanche un volt, quindi è da 3 volt, se avessi avuto 2 volt e mezzo, forse ho 2 volt, non so se Fabrizio mi confermerà, magari tenerlo, ma non c'è neanche proprio completamente scarica, è della Sanio, figurati, ma è stata staccata perché ho visto la saldatura, era ancora in originale, aveva il suo trafiletto coperta praticamente, perché mi ha mandato la foto Fabrizio, altrimenti non l'avrei mai trovata. Quindi originale la radio, sai quanti anni hanno questi tipi di radio, sai quanti anni ha la batteria, perciò ogni tanto è giusto che vadano sostituite, trovare si trovano, ma può darsi che la trovi senza queste due alettine che ha positivo e negativo già pre-stampato, attaccato già, dove è facilissimo attaccare, se non ha quelle devi andare a modificarla la batteria e rischi di fare danno, cioè non è un lavoro sicuramente che posso fare io, tutto qua. Ma avanti, Giulio riprende e fai girare. Saluto Francesco comunque, ciao Francesco, buonasera, ben ascoltato. Avanti Roberto. Sì, sì, non so se lo saluto a Francesco, non lo ricordo, comunque lo saluto adesso. No, la, quelle da saldare lascia perdere, a parte ci vuole un saldatore grosso per saldarlo e rovina la batteria. La, come mettere il contenitore, l'ho fatto io su un apparato, su, su un ricevitore, insomma, il contenitore è più semplice. No, poi no, non tocca assolutamente niente perché ne ho già parlato con Fabrizio, una cosa che... Ripeto, sono riuscito a toglierla perché è facile toglierla, ma se la trovi uguale è facile anche metterla, sono due saldaturine, ci sono le sue rettine, positivo e negativo, la saldi, c'è un feltrino per essere isolata e basta, l'ho staccato il feltrino, l'ho rimesso da parte, già pronta a saldare, l'ho rimesso suo, nel suo posto, però se non la trovi con queste due alette il problema è... Per me è diverso, uno perché non ho capacità di farlo, uno non ho neanche il saldatore adatto per poter fare una cosa del genere, quindi dovrò farmi aiutare. Adesso vediamo un po', se mi aiuta Fabrizio che mi trova questo, questa cosa, se no vediamo un po' la fusata domani, cosa ci abbiamo. Ok, vai Giulio in attesa che rientri Fabrizio. Ok, qua. Dunque, se ho capito bene, è una di quelle batterie piatte, tipo che so io una moneta come un euro per dire, no? Tanto per intenderci, credo che sia una cosa del genere, così ho cercato di capire, di intuire la forma di questo, di questa batteria. Bene, bene, signori belli, io mi devo lasciare perché mi hanno già chiamato al telefono per scendere giù per la cena, per cui non posso far altro che ringraziarvi per il questo, è stato veramente piacevole, stasera abbiamo parlato finalmente di qualcosa di interessante, è stato un questo magnifico, eccezionale. Ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, ciao Roberto, grazie anche a te, ciao Fabrizio, grazie anche a te e soprattutto grazie per avermi mandato quel messaggio, visto che hai fatto un ottimo lavoro, un lavoro bello, ordinato, come si dovrebbe fare. Ciao Francesco, se sei ancora all'ascolto, salutoni, ci sentiremo domani se coincide. Riprendi pure, vabbè, ascolto il finalino di tutti e dopodiché chiudo per la cena, vai. Io, ciao Giulio, ben sentito, quando vuoi, è sempre un piacere ascoltatemi, sto guardando la Juve, come si chiama, la Roma, penso che sia già finita perché sono 95:47, ha dato 5 minuti di recupero e siamo già oltre, ha espulso a Mourinho. Ok, avanti, chi c'era per i saluti, Claudio? Sì, qua c'è, intanto saluto, poi mi dice cosa ha fatto il Napoli. Ho dato un'occhiata, ma ho visto che stava succedendo una paraonda, forse una carica sul portiere. Ciao Giulio, un abbraccio, grazie a te delle QSO, delle due chiacchiere, a me piace ascoltarvi sinceramente, ma non ne ho fatto a meno, non potevo fare a meno di entrare e fare due chiacchiere perché ho visto che il QSO era abbastanza interessante e le persone che si trovano appunto sono persone piacevoli da poter chiacchierare. Ciao, un abbraccio, buona cena, buon tutto, alla prossima. Ok, ciao ancora di nuovo, salutoni. Sì, quando il QSO è interessante ti invoglia anche a partecipare appunto, non solamente ad ascoltare, questo è stato molto bello stasera, dai. Ciao ancora a tutti e grazie infinitamente per tutti, ciao, Fabrizio se sei rientrato riprendi, ciao, chiudo. Non è rientrato Fabrizio, riprendo io, 0-0 Napoli confermato, a pari punti col Milan, primi classifica, adesso vediamo la Juve, io non sono juventino però speriamo che vinca la Juve. Beh, aveva fatto 16 punti e insomma si sta avvicinando, è 4-4, se dovesse vincere oggi il Gempio sta facendo delle bellissime partite, quindi già 4-4 le ha vinte, se dovesse vincere anche questa che non è facile perché l'Inter è una grande squadra, l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando anche quest'anno, anche in assenza di Lukaku. Vabbè, vita è migliore, non so cosa hai detto, se io sono juventino però non mi esprimo perché va bene così, vita è migliore e va bene a tutti, però se vince sono contento perché insomma 5-5 inizia già a prendere quota, la partenza di Allegri mi risulta appunto come quella di qualche anno fa, che è partita molto a ritardo, 16 punti dalla vetta. ha vinto per 5 anni consecutivi il campionato. Sì, ma io sono sicuro che vincerà la Juve. Riparate poi, anche se non vincesse la Juve, che c'è una bella partita, che non sia di quelle partite monotone, cioè che sia una bella partita divertente e poi vinca il migliore, naturalmente senza episodi polemici e strani, di rigori inventati o cose del genere, che c'è tutto chiaro e pulito senza nessuna discussione alla fine, perché il brutto è quello, perché poi vai a riprendere una partita e ci sono discussioni eccetera eccetera, e non mi piace. Devono vincere con merito chi vince, chiunque sia. Quello è il problema, Roberto, tu sei benissimo, io sono molto sportivo, io guardo tutte le partite, a me l'Inter piace come squadra, non sono anti-interista, mi piace il Milan, mi piace il Napoli, mi piace l'Atalanta, peccato oggi per l'Italia ha pigliato una battuta la Fiorentina, ma nettamente superiore la Fiorentina, comunque va bene così, però il problema è che ogni volta che c'è Juventus e Inter, o Inter e Juventus, ci sono sempre polemiche, sempre, sia durante la partita che dopo partita, sempre polemiche, chiunque vinca, vi hanno regalato quello, vi hanno regalato quell'altro, ma il rigore non c'era, c'era, bim bum bam. Se l'arbitro è in campo, se ci sono altri tre arbitri che seguono la partita su uno schermo gigante da poter dire questo è così e questo è con la matta, cioè finiamola con queste stronzate. Sono loro in campo, noi siamo al di fuori, se il rigore c'è vuol dire che c'era, se il rigore non c'è vuol dire che non c'era, tutto qua. Però le polemiche l'indomani ci sono sempre, ladri avete vinto qui, avete vinto là, chiunque sia è per carità, che siano juventini che siano interisti, sono tutti uguali, bisogna essere un po' concreti e sportivi. Hai detto bene, ho 5 minuti di bianco che mi sto allontanando un attimino, arrivo subito. Fai, già sono qua in ascolto io, fai. Eccomi, c'è qualcuno ancora? Hola, c'è qualcuno? Sì, sono qua, sto aspettando a Fabrizio. Ah, ho capito. No, stavo dicendo, il Lazio sarà la pillato da Lazio, 4-1 e 3-0 il Cagliari. Infatti te lo sto dicendo, Cagliari ha preso una battuta la Fiorentina, ma nettamente superiore. Non l'ho guardata, ma ho visto il commento su Sport Italia, allucinante, cioè completamente assente. Questo Cagliari infatti è una buona, cioè qui la Sampdoria, che è una squadra fortissima, e poi vai a prendere 3 gol senza nessuna iniziativa, se poi c'è 11 morti in campo, veramente. Ma io ero mezzo addormentato perché ero circolizzato, appisolato, diciamo, e l'ho messa in sottofondo, ma ogni tanto aprivo l'occhio, però non ha fatto mai un tiro in porta. Quando l'ho visto io su 2-0 non ha fatto un tiro in porta il Cagliari, non ha avuto nessuna occasione. E la Lazio l'ha ammazzata, il Verona l'ha ammazzata proprio, infatti ha fatto un bel risultato l'altro giorno con chi era, con l'Inter, e ci ha sceso il Varsi. Adesso vediamo stasera come va a finire, dai. Poi martedì ci sono di nuovo le partite, mi giocano martedì e mercoledì e più domenica lo stesso, sabato e domenica le altre partite. Ah, ma perché la Lazio ha perso di nuovo? Ha perso 4-1 col Verona. Ma questo Verona sta dando spettacolo, allucinante questo Verona, veramente uno squadrone, ma l'hai vista giocare, mica pazzesca. Guarda, io l'ho vista contro il Milan e ti posso dire è una delle squadre che mi ha impressionato più di tutti, a parte vabbè quelle forti, di quelle cosiddette tranquille, è la squadra che mi ha impressionato più di tutti, e anche devo dire la Salernitana, nonostante che sta bustando forte, però giocano, si vede. Il Verona è impressionante, contro il Milan era impressionante, ho detto cacchio di co-". Poi Milan ha vinto 3-2 perché lì parte sempre. Ieri a Giumba non pesce, meno male che si sono svegliati, hanno fatto 20 minuti del secondo tempo in bambola, gli hanno fatto 2 gol uno dietro l'altro, poi meno male che si sono svegliati un pochettino. La Torres ha vinto fuori casa, la Torres ci ha perso, ho visto i risultati, sono contento per la Torres e speriamo che sia l'anno buono quest'anno. Anche la Torres sta dimostrando di fare la play, sta giocando fortissima, molto bene, sono contento. Il Verona è neopromossa, cioè tu guarda il Verona, l'Empoli, la Salernitana, qual è l'altra, il Benevento, il Crotone, cioè sono squadre che ti hanno mattana, mi robe, ma mattana forte, ma il Verona è una cosa allucinante. Infatti mi aveva dato 4 gol e ne ha avuto avuto di occasioni, ti posso dire, non è di quelle partite che ti va tutto bene, ha avuto diverse occasioni. Chi è scandaloso è il Cagliari, con i giocatori che c'ha, io dico, non è possibile che una squadra con quei giocatori, perché c'ha giocatori di un grande livello, c'è anche Crando, il portiere ne ha salvato qualche gol, se no ne bigliavano 4-5 in più di gol. Ok, vediamo se è diventato Fabrizio. Fabrizio sì, non ce ne so, c'era Gianfranco stasera, un'oretta fa, poi ha detto un attimino telefono, poi ha interrotto, non l'ho più sentito. Se ti ha detto un attimino telefono vuol dire che è reperibile. Vuol dire che è reperibile ed è fuggito, è uscito o è andato a casa. Lui c'è anche la reperibilità o non l'hai capito. Tutto qua, e quante volte a stare a casa in pigiama d'inverno, bello bello al calduccio, squillare il telefono, la reperibilità è farmi 50 km e andare a fare una riparazione, cazzate erano, però, capito, prima di muoversi loro chiamavano il reperibile, dovevi andare. Tutto qua, e vabbè, adesso è finita, si arrangiano le fonti a Neghiscio Gribiasi. Manco vero mi è sembrato, manco vero mi sembra veramente che sono a casa, rilassato, tranquillo, e sono arrivato al mio obiettivo che tu ben conosci. Speriamo Gesù Cristo mi lasci e se non faccia quello che vuole, tutto qua. Molto bene, adesso mi aspetto che rientri Fabrizio e via. Questa non ha mai detto niente la radio, quindi va bene. Sì, cos'è il 757? No, questo è il numero 2, se lo sai di che cosa. È il fratellino di quello più performante, no, non sto facendo bene, niente da dire. No, se fosse stato l'altro me ne sarei accorto il numero 1, anche questo va bene, niente da dire. Diciamo quell'altro c'ha un qualcosina di più che lo rende unico. Beh, la tonalità, perché altrimenti sono perfetti tutti e due, la verità. Questo ha una tolleranza di secchite perché manca il filtro, però va benissimo, ottima anche in banda laterale, perfetta. Il microfono è un altro tipo di microfono, non ho capito, ma se metto 60 è performante quanto l'altra. Tu senti la modulazione, però come vedi il segnale, tutto è perfetto. È perfetto, ogni tanto lo faccio andare anche in AM, se no altrimenti lo tengo sempre in ricezione in 40, in 80, in 20, insomma, in banda amatoriale, però in stereo e l'altra la tengo in 27, adesso l'altra è spenta, sto andando con questa luce, a meno che a me da un po', devo mettere la batteria lì a quella là, e domani ti dico che radio è quella che ho tolto la batteria tampone, non è sempre un capo, ma non ha niente a che fare con questa. Passa, poi domani te lo chiedere cosa. Sì, intanto una mattina devo uscire perché devo, adesso sento gli amici Fabrizio, devo andare da Fusaro, devo accompagnare mia figlia in macchina, dobbiamo fare un'operazione, vabbè, devo nascondere un po' di soldi perché altrimenti il fisco poi mi ammazza. Guarda, ti do un consiglio, tieniti il minimo indispensabile e cavani tutto, stai attento, detto da persone che sanno quello che dicono, non tieni nuda, quel poco che c'hai ti tieni e tutto il resto toglilo. Così devo fare domani, vabbè, con mia figlia devo fare un'operazione perché sto vedendo un po' di traffici, un po', vabbè, già la parliamo domani. Ok, quindi ci sono ancora tutta la cosa della casa che ho venduto, però stiamo facendo delle cose, ma non mi conviene farle, me l'ha consigliato così come hai detto tu, te lo sto dicendo proprio, papà e la me l'ha fottino da lì che non ascolto, non li ho rubati ma li ho lavorati, quindi è giusto che sia così. E quindi domani vado andare a banca con mia figlia, la mattina, poi passo da Fusaro, vabbè, ma io intanto con lei la contenta poi sia alle 11 qua a mezzogiorno. Quindi prima faccio il solito giro, caffettino, colazione, sigarette, poi passo da te. Poi ci facciamo la chiacchierata, ti dico anche che cosa ho fatto là, cosa ho preso. Vediamo un po' se Fabrizio c'è. Fabri Fibra, no, è ancora a difendere la batteria a me, ma molla, futtitini, vediamo se troviamo qualcosa. con le batterie, quelle con la lamella, lo sai che costano una barca di soldi, io l'avevo comprata, ma mi pare 16 euro lo pagate per una macchina che c'aveva un telecomando, un Mercedes, no, un BMW, era 16 euro l'ho pagata, e se andavi a comprare la Fusano costava 36 euro, perché a meno che stiamo parlando della stessa batteria, dai, magari ce ne sono altri modelli, non ce l'aveva la Fusano, e costava 36 euro, siamo riusciti a trovarla su internet a 16 euro. Super, ma la Fusano da poco costa anche 50, però ce la trovo uguale e evito di fare modifiche, se poi Fabrizio mi trova questo portabatteria, la metto dentro e salve delle due polarità. È una semplice batteria rotonda, piatta da orologio, solo che anziché non come quell'orologio che è normale senza niente, questa c'ha né un lato una letta che è negativo e una letta positiva, dove va saldata poi sul circuitino stampato, capito? Senza quelle due lette come fai a saldarla? Non fa. È facilissimo toglierla, facilissimo metterla, però così, in originale, se poi vuoi fare modifiche, non è di mia competenza sicuramente, capito? Tutto qua, è da tre volts, questa è completamente morta, cioè mi sembra neanche un volts, se avessi avuto sicuramente almeno due volts e mezzo avrebbe tenuto ancora le memorie, ma è morta. È morta perché questa radio è rimasta tantissimo tempo ferma, circa un anno dentro la radio, e chiaramente non ha lavorato, e non so se sono delle batterie che lavorano in base anche come sono i condensatori per dire che si caricano eccetera, non lo so, non conosco esattamente il funzionamento, poi domani te lo dico. Era male una radio ancora di vecchia generazione, se c'è quelle radio nuove, quelle batterie quando si scaricano, quelle tipo parliamo apparati di nuova generazione, quando si scaricano quelle batterie ti va in tilt l'apparato, ho visto, ho letto sul forum che si rampi tutto, che di nuovo rientrare via software eccetera eccetera, vai in tilt l'apparecchio e non si funzionano certe funzioni, perché sono batterie a tampone che tengono, oltre che le memorie diciamo dei canali, tengono anche i dati di coso, allora devi trovare uno che se lo attacca al computer, col cavo seriale e attaccarti al computer e metterti, reinstallarti tutto quanto, oppure avere un altro apparecchio uguale che lo trasferisci da uno all'altro. Guarda, ti dico solo che tu hai presente 940, 940 c'è uno sportellino, no? Mi sembra che lei già visto, non lo conosci. Il 910, che perché prima di arrivare al 940 è uscito 910, 920, 930, 940. Il 910 e il 920 e il 930 avevano uno sportellino sopra il coperchio dove c'è, per le memorie, un portabatterie di quelli, adesso non mi ricordo se era mini stilo o stilo direttamente, e quindi 1,5, 1,5 sono 3, da 3 volts lo stesso, quindi due batterie di quelle stilo da 1,5 per mantenere le memorie. Infatti io quando in quegli anni ho preso 920, che è bellissima, quella 940, solo chiaramente mancano delle cose eccetera, però la grandezza è sempre quella, è tutta uguale. Insomma, non teneva, al momento le teneva, poi la spegnevo e poi l'avevo chiamato che me l'aveva venuto, ho detto no, guarda, è facilissimo, mi sono dimenticato di dirtelo, evidentemente mi sono dimenticato di cambiarti quella, c'è uno sportellino, apri quello sportellino, ci sono due batterie, e lui te li ho visto, ma pensavo fosse qualcosa per non lo so, togli quelle, metti le nuove, le ho messe a posto. C'era più comodo di tutti, non c'era da aprire a fare, l'hanno fatto per questioni di spazio eccetera eccetera, poi per costringerti ad andare a fare le manutenzioni dalle officine dai laboratori autorizzati, e così lo fanno anche per le macchine, ormai tutto le reverserie le fanno più complicate per costringerti ad andare nelle officine autorizzate o dalle concessionarie. Ok, vediamo se è rientrato Fabrizio, io sto aspettando che mi chiamino per andare a mangiare. Avanti Fabrizio, se ci sei batti un colpo. Scendi, lo sto mettendo in moto con qualche cosa, accidenti. Il 780 è lo stesso sempre della Kenwood, che è una base, ti ricordi che a te piaceva moltissimo, un po' più piccolo 940, è un base a 220, alimentazione 220, però i finali a transistor normali, no? VHF, la stessa cosa, piccolino con due minifilo, serviva per le memorie, per le 10 memorie che ha, insomma non è che ne avesse tante, anche il 920, 930 avevano 10 memorie, non è che avevano tantissimo, capito? Sì, infatti non veniva tutti l'anno da quando vai in quel tipo di frequenza, usare in cose in CD, 27 deve avere 40 canali. Wow, ma infatti io li avevo memorizzato dal 780, ad esempio l'avevo memorizzato la diretta, poi li avevo messo i punti, qualche simplex normale così per l'ascolto e basta, niente, niente di che, quindi non ci arrivava neanche, insomma ne avevo memorizzato 6 o 7, capito? Tutto qua. Stasera pizza di nuovo? Cosa ti fai? No, stanno preparando loro, mio genero che è bravo cucinando con mia figlia, adesso non so la stanno cucinando. Ieri abbiamo mangiato la pizza, la mangiamo abbastanza per spesso la pizza, è roba veloce, non sa prendere tempo, ma è molto molto bravo cucinando, proprio un artista lui. Si appenta, poi fa tutte queste cose particolari, che ci mette crema di, non so, di funghi, crema di zucchine, si appenta, fa tutte queste cose sfiziose, dai. Ok, ma devo fare cosa? Ci ha trovato in bianco, sì, e come mai, dai, insomma, chi è appassionato della cucina cerca sempre di fare il meglio, di fare il meglio, va bene. No, io sinceramente non so perché, ho mia figlia che ha un virus intestinale, quindi penso che, ho visto che oggi ho mangiato in bianco, quindi penso stasera ci sia sicuramente la carne d'essa, alcune delle salate, sono la roba leggera. Io mi sono tolto una bella pizza dal freezer, mi apro una lattinetta di birra, ne vengo qua in distanza e mi guardo la Juventus. Sono fatto la scheda al mio genero, nel fatto lui non c'era stasera, se non se la guardava anche lui, era a casa di altri amici. Poi domani vado a vedere il report, metto la scheda e mi guardo questa partita, perché voglio poi rispondere a quello che sono le critiche e le cose, perché se io vedo ti posso dire no, stai sbagliando, non è così, ma se non vedo siamo sempre le solite, capito? Ogni volta la stessa storia, ogni lunedì è qui e là e bimbo, ma no, invece l'ho vista e ti posso rispondere, se non vedo è inutile rispondere e dire che non fate. Sì, quello è vero. Poi di Juventini mediamente, io sono Danilo, mamma mia, ma ragazzi, andando bene della Juve c'è sempre una scusa, no? Che dire, io sono milanista, però non sono assolutamente sfegattato, se vince mi fa piacere, se perde non è voluta una malattia, ma lui, mamma mia, è una cosa esagerata, e il 90% degli Juventini sono così, difficile che tu trovi un Juventino sportivo e dice no, oggi abbiamo giocato male, sono stati più forti, sempre colpa dell'arbitro, c'era quel rigore, quel fallo doveva sbattere fuori, qua, là, ogni volta viene una nuova, cioè non hanno mai l'attitudine di dire sì, sono stati più forti, quando c'era il Milan un bel forte, il tempo di Bari, sempre da capo, hanno vinto per un tiro cagato, non perché era più forte, sempre per questo. No, ma mi senti, anche quando commento con Danilo mi senti, no, è così, no, ho giocato male, c'è una squadra di buffi, bim bum ba, quelle partite che stavano perdendo, ne hanno perso, hanno perso anche con l'Empoli, no, lo sai, quindi, cioè, io le commento a modo mio e in modo sportivo, non sono, ti ripeto, anti niente, però se la tua squadra del cuore è una squadra che gioca bene, io dico che gioca bene, se gioca male dico che gioca male, non te andare a raccontare baggerate, perché alla fine non sei sportivo. Assolutamente, infatti lui mi meraviglia perché è nato come me in mezzo al calcio, abbiamo vissuto da bambini, da quando siamo nati in mezzo al calcio, già lo sai noi cosa faceva mio padre, per cui un po' di sportività invece è ruda, è così, ma non è l'unico, ti ripeto, forse è una malattia degli Juventini che non accettano la sconfitta, hanno sempre vinto, normalmente la Juve è la squadra più titolata, vince più di tutti a livello internazionale, a parte il Milan vecchio di Sacchi e di Berlusconi, però vediamo negli ultimi anni è l'unica squadra che riesce ad andare avanti nelle coppe, perché le altre fanno ridere tutte quelle che ci sono, arrivano massimo al primo turno, un po' l'Atalanta, però diciamo arriva perché c'è un bel gioco di squadra, l'allenatore sa metterle in campo, perché se no anche lei con quei giocatori non so quanto potrebbe andare avanti, perché non è competitiva tipo con le altre squadre che ci sono. Ok, vediamo se è rientrato Fabrizio, attenzione 10, chi vuole entrare, se no. Non so che è andato Fabrizio, non so, se sta cercando qualcosa, no. assolutamente. Guardate, mi aperta, scoperchiate, la lascio lì, io sono appunto ho collegato l'altra, giusto per fare due chiacchiere. Fabrici, sì. Nulla, oggi è una di quelle giornate che ho il QRM basso, 5, raramente arriva così basso il QRM, ma speriamo che duri. 5, cioè io quando lascio la portante va a 0, proprio a 0, no? C'è segnale 1, poi c'è l'altra tacchetta proprio che c'è lo 0, si appoggia quasi sullo 0 e si sente il fruscio proprio della colonnina esterna, bello, pulito, pulito. Se cambio che vado con l'avanti, ma minimo una Giosetti. No, infatti adesso non so tempo devo metterla, io oggi non avevo gana, se no avrei iniziato a metterla su, a portarla su, perché è un bel grande, c'ha un sacco di radiali, sono enormi i radiali di quella antenna là, quella che già sai tu, dai. Mentre col grande grande, con l'apparecchio grande, quello invece è cacchio, zero, il QRM è a zero quello. Questo è il 440. Questo è il 44, col grande dico, con 94, quello è un cacchio zero proprio il QRM. Perché è così, c'è da fare. Non c'è niente da fare, le radio più selettive sono quelle, ma guarda, questo 430 è veramente molto molto selettivo, veramente, molto più del 440, questo lo dico perché è così, io posso dirla questa cosa perché li ho avuti tutti e due, li ho sempre fatte le comparazioni, il 430 è molto più meccanico, molto più silenzioso, più selettivo, veramente un'ottima radio e non crea problemi che crea il 440 veramente, infatti quella che ho preso è simile a questa, al 430 da battaglia, nuova pazienza, questa batteria tampone, è una fesseria, ma la radio è perfetta, capito? 440 no, perché assolutamente ho avuto troppa esperienza, ho buttato via troppi quattrini ed è una radio che oggi vale poco e se ti si ferma ci rimetti quattro cavoli. Sì, quello è vero, bisogna fare attenti a quello che si prende, ma anche a fare il lavoro che ha fatto l'amico nostro di ricostruzione del circuito dei condensatori, che è il chiamato condensatore di qualità, e si spera che duri un po' di più rispetto a quelli originali. Beh, signori, io mi sa che adesso vado a mangiare, perché sono già le 8:30, dopo mi volevo vedere, perché adesso sono le 8 e le 8:30 più o meno sono. Così mangio qualcosa e mi guardo questa famosa partita. Ciao, ci sentiamo domani, Clap, quando vuoi passa. Saluto eventuali amici su 10, se c'è Fabrizio che mi ascolta, saluta a lui. Ok, ciao ciao, correte da parte mia. Ciao Robert, grazie alle due chiacchiere, ma io rimango in ascolto, già lo sento a Fabrizio se chiama. E poi riprendo, ok, un saluto circolare a tutti, ciao ciao. Ma con o senza pedivella? Cosa sono? Aspetta, un saluto se con o senza pedivella? No, sempre con la pedivella, Lucari. Io sono arrivato adesso. Che do, a me, che ho qui c'è da sistemare. Tanti, avete due. Quello uno ha un problema. E se metto il Bluetooth non me lo fa funzionare. Perché Windows 7, due cose per quello magari. Ah, vediamo, voi già riesci a fare. Stasera c'è una grande partita. E mi stavamo commentando un po', stavamo commentando gli altri, Ugari hanno pigliato tre della Fiorentina, il Verona ha avuto una mattinata alla Lazio allucinante, il Napoli ha pareggiato con la Roma, ha detto ma stasera mica il migliore, c'è Inter Juventus, vediamo, no infatti me la guardo perché così evitiamo i commenti con gli amici domani, capito? Qui, là, no, qui, no, ferma un attimo, l'ho vista ed è così, così, così. E ogni lunedì sempre Mattesettori, anche se gioca per dire Inter, neanche su Inter Milan, no, cioè sempre Mattesettori. No, qui, ma c'era quello, c'era quell'altro. Ma ci sono quattro arbitri, tre pusati, uno è tre in campo, sì ce n'è, sì arbitri, come fai tu a dire che ti hanno dato quello o non te l'hanno dato? Ma vai Inter la partita, non ti i commenti se la vai da nuda. Ma infatti, quello che è vero, bisogna guardare la partita, esatto. E dove fai? Questo è il primo, finca il migliore. Finca il migliore. Sì, insomma c'è un po' di cose da fare, qualche lavoretto io c'ho da fare, mancanza d'altro, andiamo a mi posto sul computer, c'è anche Fabrizio, che stava cercando un portabatterie per me, per vedere un po' come devo fare per piazzarlo, fare batteria tampone alla radio, che non mi tiene più le memorie. Comunque siamo qua, fai pure, già sono in ascolto. Sì, ya, andate. Mi senti bene? Sì, come sempre. Sì, sì, claro. Ok, dai, quindi anche se ho un altro microfono, ma la radio è sempre chi c'è. Va bene, Lucaria, sono qua in ascolto. Senta Fabrizio, già riprendo, ok? Che mi mangi un po' fronte. Un po' di rocci.